Aspro passaggio solo sopra questo sentiero sconnesso. Aspro passaggio attraverso ogni volta che penso alle cose che ho perso. Al mio passaggio sopra questo. Aspro passaggio solo sopra questo sentiero sconnesso. Aspro passaggio attraverso ogni volta che penso alle cose che ho perso. Nell'aspro passaggio che attraverso. E ancora l'alba e mi preparo per il viaggio. Ben prima che ti svegli, prima che il sole porti un altro stile raggio, raccolgo i miei disegni e i progetti, affronto un altro sprapassaggio e me ne vado, però non sto fuggendo. Lo so che non mi aspetti e che non c'è ritorno e che mi porto dentro ogni ragione, ogni torto, subito pure inferto. Ma nell'aspro passaggio che attraverso è come un passo in un deserto immenso, andando verso quello che ho lasciato e non ho perso, perché lo porto appresso impresso e sento il gusto ancora adesso. Nella bufera sorda dell'indifferenza, tormenta ghiacciata della realtà nefasta che imperversa. Nell'aspro passaggio sono io oppure lui che mi attraversa. Non chiedo più alla vita e nulla osta, perché conosco la risposta. Abbasso la testa ma non lo sguardo, perché i mali del tuo mondo non mi avranno, e lo vedrai come cadranno al mio passaggio. Ricordo bene tutto dai vecchi tempi all'era dell'oltraggio, mentre mi muovo a stento nella nebbia verso un altro aspro passaggio. Aspro passaggio solo sopra questo sentiero sconnesso. Aspro passaggio attraverso ogni volta che penso alle cose che ho perso. Al mio passaggio sopra questo. Aspro passaggio solo sopra questo sentiero sconnesso. Aspro passaggio attraverso ogni volta che penso alle cose che ho perso. Nell'aspro passaggio che attraverso. È solo quando bevo che penso che tutto sia lecito. Sorrisi che si scambiano, si infrangono sul solito. Sole del mattino riaccompagna anime disperse nelle tenebre, solita lagna. E domani sarò ancora sotto questa ansia che mi cuoce. Aspro passaggio, il mio astro nefasto mi conduce. Non c'è luce né senso, non c'è amore né passione né fiducia né resto. Solo un testo e la mia musica per dirlo. Gioco al rebus di me stesso, neanche io posso capirlo. E se mi chiedi come va, beh, tutto a posto. Ogni parola è una ferita, no, è un altro morso sul mio collo mentre vago nella notte. L'ansia è lo spartito e l'alcol suona queste notte. Sinfonia stonata qua nell'eterna dannazione, scaldando le mie notti in questa eterna glaciazione. Aspro passaggio che mi ingoia, sono impasto a questo aspro paesaggio. Il mio boia mi lascia andare un istante, ma il giorno dopo è una tortura incessante. Aspro passaggio che mi ingoia, sono impasto a questo aspro paesaggio. Il mio boia mi lascia andare un istante, ma il giorno dopo è una tortura incessante. Aspro passaggio solo sopra questo sentiero sconnesso. Aspro passaggio attraverso ogni volta che penso alle cose che ho perso. Al mio passaggio sopra questo. Aspro passaggio solo sopra questo sentiero sconnesso. Aspro passaggio attraverso ogni volta che penso alle cose che ho perso. Nell'aspro passaggio che attraverso.